24 mattino. Le 8 e 17, eccoci qua con 24 mattino, è il momento dell'economia. Soldi e dintorni. Deborah Rosciani, eccoci qua, eccoci, buongiorno. Ciao, buongiorno a tutti. Allora, oggi parliamo dei risparmiatori italiani, insomma, siamo un po' pronti risparmiatori. Sei un... No, mi ha detto, detto che devi farmi un quiz, sono guarda, in tensione domanda, da 5 minuti, è una mi sudano semplice. Le mani. Vorrei capire qual è il tuo stile finanziario, ritieni di essere un innovatore, un aspirante, un distaccato dal mondo della finanza? Ecco, facevo bene. Un accumulatore, un previdente, uno spensierato o un facoltoso? Ecco, a parte l'ultima che è veramente un concetto che non capisco, andiamo avanti. Non vorrei mancare di rispetto a questa indagine che in realtà dal punto di vista scientifico è anche piuttosto interessante, perché parliamo di risparmiatori che, come sapete bene, da 2 anni sono stati traditi per l'ennesima volta dal mercato. Negli anni passati nel nostro paese grandi crack finanziari, Cirio, Parmalat, l'Argentina, che dai risparmiatori non sono certo stati dimenticati, e adesso si sono visti servire il piatto indigesto dei mutui subprime con tanto di crisi globale. E di conseguenza cosa è successo? Che gli italiani hanno manifestato questa tendenza, depressione e fuga. Questo almeno è quanto emerge dall'ultimo aggiornamento di questa indagine di cui vogliamo parlare questa mattina. Si chiama Multifinanziaria Retail Market, in inglese, è realizzata da un importante istituto di ricerca italiano, GfK Eurisco, è relativo al mese di gennaio, quando ancora la crisi mordeva, la ripresa delle borse non era iniziata di nuovo perché è ricominciata a marzo, ma c'erano anche già delle prime proiezioni sui mesi successivi. Allora stamattina ne parliamo con il direttore generale di GfK Eurisco, Fabrizio Fornezza. Dottor Fornezza, buongiorno. Benvenuto a Soldi e Dintorni. Buongiorno a voi, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Peraltro a sostegno degli investitori, dei consumatori spaventati, anche un po' arrabbiati, come evidenziato da Eurisco, dalla crisi dei mercati, ieri sono arrivate anche le dichiarazioni del presidente dell'antitrust, Catricalà, che ha detto molto chiaramente occorre vigilare affinché i costi della crisi non siano riversati sui consumatori. Allora, qual è la macro tendenza che emerge da questa indagine? Spaventati, fino a che punto gli italiani, che cosa hanno fatto in questi mesi? Ma intanto c'è da dire che per fortuna i nostri colleghi risparmiatori tutto sommato hanno avuto degli impatti non enormi da questa crisi, cioè circa un 20% sono le famiglie che dichiara di aver avuto un impatto importante, però tutti si sono spaventati, tutti ci siamo spaventati. Tutto sommato abbiamo appreso che il nostro sistema bancario e finanziario era un pochino meglio degli altri, e in questo tutto sommato abbiamo avuto delle rassicurazioni, per cui ad esempio, come ricordava lei prima, non abbiamo avuto le crisi di immagine del sistema bancario che abbiamo avuto ai tempi di Parma, della crisi di Banca d'Italia, ecco, quindi l'equity, l'immagine del sistema ha retto. Però rispetto all'evoluzione dei bisogni, certo, gli italiani e i risparmiatori hanno detto questo sistema comunque va bene, sarà solido, ma non fa per noi. In questo momento stanno assumendo una posizione che è di crescente distacco, e quando lei leggeva quelle che sono un po' le etichette con le quali noi definiamo i vari segmenti del mercato, noi concludiamo, cioè guardate che in questo momento è calata la voglia di innovazione finanziaria e sta crescendo invece i segmenti del distacco, anche sui segmenti che tutto sommato hanno delle necessità finanziarie, hanno delle possibilità finanziarie. C'è una sorta di tendenza verso l'autocura, l'autarchia, il fai da te, anche con dei rischi impliciti di disintermediazione. Ovvio che non sono in assoluto, cioè l'infrastruttura banca, per usare il termine, poi tutto il sistema finanziario rischia, rimane comunque la colonna portante del paese, eccetera, però è come se stesse cambiando un pochino il suo ruolo per i risparmiatori, che non si sentono, come dire, rappresentati nei loro bisogni in questo momento. È come se il mondo bancario stesse passando da medico della finanza un po' a farmacia della finanza, con tutto il rispetto per le due figure in questo senso, cioè da qualcuno che prima gestiva tutta la parte della cura e la capacità di elaborare ricette per il paziente risparmiatore ha, come dire, un punto dove si compra in autocura, si compra l'aspirina e ce la si autosomministra, insomma, in qualche modo, insomma. Ecco, però ho letto che c'è una bella fetta non trascurabile, anche se la gran parte delle famiglie monitorate, come lei ci diceva, rimane distaccata dal mondo finanziario, rimane previdente, sono famiglie formichine, quindi continuano ad accumulare in vista magari di un futuro in cui, come sappiamo bene, la pensione sarà continuamente risicata per problemi di finanze pubbliche. Ma lascerei da parte questo, c'è comunque una fetta fatta soprattutto di popolazione giovane che non guarda, non disdegna proprio l'innovazione finanziaria, nonostante questa sia comunque chiaramente in crisi. Guardi, ma è proprio vero, guarda, questo è un po' il paradosso di quest'anno, cioè queste famiglie che in qualche modo si sono trovate a riscoprire l'autocura perché non trovavano nei, come dire, soddisfatti i loro bisogni, in realtà stanno elaborando, però lo stanno facendo un po' da sole, come senza nessun grande aiuto, se non un po' appunto dai media, dalla stampa, eccetera, ma dal sistema in questo momento finanziario non tantissimo. Stanno elaborando dei bisogni che sarebbero di innovazione finanziaria, ma non tanto di ingegneria finanziaria, sarebbero ad esempio degli enormi bisogni di consulenza. Enormi bisogni di consulenza, ci sono delle praterie di consulenza in questo momento che dal mondo bancario non viene granché soddisfatta, in questo momento non riescono ancora a elaborare. Il mondo bancario è ancora un po' bloccato nei grandi temi della crisi e non è ancora riuscito a elaborare. Si inizia a sentir parlare di consulenza, pagamento, eccetera, però è quasi per prenderla dalla coda, cioè più che prenderla dai bisogni è dal prenderlo dalla necessità del mondo finanziario oggi di vendere, di fare margini da servizio, in questo senso, insomma. Certo, però c'è un altissimo bisogno di servizio anche di alta qualità. Questo, tra l'altro, allora potrebbe essere, come dire, il punto focale del futuro. Cosa serve per infondere nuova fiducia negli investitori? Peraltro sarebbe anche interessante analizzare l'atteggiamento dei cosiddetti distaccati, che hanno una disponibilità economica nella media italiana ma gestiscono il denaro secondo canoni molto conservatori, un po' ne abbiamo parlato, sono pensionati e casalinghe, utilizzano il libretto di risparmio, al massimo il conto corrente bancario, oltre quello non vanno. Cosa serve secondo lei per uscire da questa situazione? Comunque non ci sorprende forse più di tanto questa indagine, dottor Fornessa? Gli italiani sono sempre stati un po' così. Sì, certo, però guardi, la crisi sta importando, sta cambiando un pochino anche il modo di pensare, usiamo un termine un po' astratto, il paradigma di riferimento, il modo di pensare dei consumatori e dei risparmiatori, perché stiamo rafforzando dei cambiamenti che riguardano tre punti. Il primo è quello della mobilità nell'acquisto, cioè una volta tutto sommato non si cambiava banca, oggi se esce il prodotto, anche il conto di risparmio, eccetera, i risparmiatori lo guardano con attenzione, lo provano, si avvicinano, hanno una mobilità che non avevano prima. L'altro aspetto importante che sta cambiando è una fortissima ridefinizione del valore, cioè una razionalità, una voglia di capire esattamente che cosa mi stai proponendo, con tutti poi le incertezze nella capacità di valutare l'ingredientistica, eccetera. Terzo aspetto che dobbiamo chiudere, sì. È un nuovo sistema di attesa sulla marca. Tutte cose che in questo momento il sistema finanziario non ha ancora preso in considerazione abbastanza bene. Ecco, tenendo anche conto del fatto che c'è anche questo stop a tutto il processo delle liberalizzazioni, chissà se anche questo si riflette su questo terzo aspetto che lei citava. Magari avremo modo, dottor Fornessa, di analizzare questo punto in un'altra occasione. Intanto la ringrazio molto per essere stata con noi. Buona giornata. Grazie molto a tutti voi. Buongiorno a tutti. Allora, guarda, concludo direttamente così me ne vado, Alessandro. No, che senso, come dire, quella è la porta, no? No, siccome c'è Eni che ha lanciato una grandissima obbligazione proprio per i piccoli risparmiatori italiani, è andata a ruba, a giustificazione del fatto di quello che abbiamo detto fino a questo momento, ricerca di sicurezza, quindi si va verso il mondo obbligazionario. Oggi di questo parliamo a Salvadanaio. Ciao. Le 8:32 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan. Uno sguardo alle notizie in primo piano. In Iran ancora tensione dopo il voto contestato che ha riconfermato la presidenza Ahmadinejad. La guida suprema, l'Ayatollah Ali Khamenei, si è detto favorevole a un riconteggio parziale dei risultati. La Procura di Roma ha chiesto di archiviare l'inchiesta sui voli di Stato per la quale ha indagato il Premier Berlusconi. Ospitare passeggeri su un aereo di Stato purché si voli in compagnia del Premier in un viaggio istituzionale non costituisce per la Procura reato. E il capo dello Stato Napolitano ha respinto le dimissioni di tre membri del CSM che avevano lasciato in polemica col ministro alla giustizia Alfano. Dimissioni ritirate e Napolitano che ha lanciato un nuovo monito al CSM: non interferisca in decisioni che spettano al Parlamento. Per lo sport, il basket, Siena è campione d'Italia per il terzo anno consecutivo. La Montepaschi ha dominato anche l'ultima gara di finale contro Milano e ha chiuso sul 4-0, mentre l'Under 21 di calcio è esordito nella fase finale dell'Europeo 0-0 con la Serbia. La prossima partita venerdì contro la Svezia. Tutto questo alle 8:33 minuti, 349-238-6666 è il numero per i vostri messaggi. Allora parliamo della decisione, insomma, venuta dall'incontro, il faccia a faccia tra Berlusconi e Obama alla Casa Bianca, da parte dell'Italia di dire sì, accettare che alcuni prigionieri attualmente al carcere di Guantanamo, quel carcere nato dopo l'11 settembre, anche da qualcuno contestato per la lotta antiterrorismo voluta dall'allora amministrazione Bush, Obama non lo vuole, lo smantellerà entro la fine dell'anno. Che fine fanno questi prigionieri? L'Italia ha deciso di accollarsene qualcuno. Qualcuno dice tre, ma oggi sui giornali si dice forse anche cinque il numero. Io voglio salutare innanzitutto il procuratore Stefano D'Ambruoso, buongiorno. Buongiorno a voi. D'Ambruoso è un magistrato che si è occupato per anni di antiterrorismo, oggi dirige l'Ufficio per il coordinamento delle attività internazionali al Ministero della Giustizia. Procuratore D'Ambruoso, le chiedo innanzitutto, siccome si sono fatti i nomi per esempio di alcuni presunti terroristi che potrebbero arrivare in Italia, ironia della sorte, scrive oggi La Stampa, alcune di queste persone sono persone che furono indagate proprio da lei, no? Sì, guardi, per i nomi che sono stati fatti, anche se una lista eventuale non sembra sia quella definitiva, ma i nomi che sono stati fatti sono stati indagati a Milano nel corso di indagini che hanno riguardato delle cellule di Al Qaeda e dintorni presenti sul nostro territorio. La domanda è questa: se venissero in Italia queste persone che quindi hanno carichi pendenti dalla procura, vuol dire che andrebbero in carcere o sarebbero liberi? Rimanendo sempre sulle notizie dei giornali, se fossero queste tre persone soltanto, queste persone appena arrivate in Italia avrebbero delle misure cautelari pendenti che non sono state potute effettuare sino ad oggi proprio perché detenute a Guantanamo. Le chiedo in che termini possiamo identificare invece il rischio, insomma, di avere alcune persone che possibilmente potrebbero essere anche libere di circolare sul territorio, insomma, sono persone che se erano a Guantanamo qualcosa evidentemente hanno fatto. Ma guardi, un rischio in astratto evidentemente esiste, è stato messo anche in evidenza dal Ministro degli Interni, che come tutti gli altri paesi europei che hanno dato una disponibilità a ricevere queste persone, ricordiamoci che questa è una posizione comune di ben 27 paesi, ebbene l'Europa ha detto noi siamo disposti a riceverli, però ciascuno di questi 27 paesi disciplinerà quali sono i controlli che devono essere fatti sulla libertà di movimento di queste persone e sul monitoraggio che deve essere continuo su queste persone. Quindi c'è una disponibilità comune che prevederà per esempio anche che non si potrà passare liberamente grazie a Schengen, grazie alla libertà di circolazione che c'è in Europa tra tutti i 27 paesi. Questo è soltanto un esempio, quindi volevo ricordare che questa è una posizione comune di ben 27 paesi che è stata espressa soltanto 10 giorni fa a Bruxelles in un vertice fondamentale tra tutti i ministri della giustizia e degli interni. Tra l'altro io voglio salutare anche da Londra la professoressa Loretta Napoleoni, buongiorno. Buongiorno. Loretta Napoleoni vive tra gli Stati Uniti e la Gran Bretagna, un'economista, esperta di terrorismo internazionale, ha scritto anche numerosi libri. Voglio ricordare solo l'ultimo, che si intitola La Morsa, uscito per Chiare Lettere. Professoressa, le voglio fare una domanda provocatoria, nel senso, visto che Guantanamo, nato dopo l'11 settembre, è un carcere appunto, come detto, da qualcuno contestato per la sua stessa natura, dal presidente Obama stesso, ma da qualcuno anche a dire ma come, non condividiamo la strategia antiterrorismo che ha portato al carcere, e quindi chiedo perché dovremmo accollarceli? Ma dunque io devo dire la verità che trovo questa decisione di rimandare alcuni detenuti in Europa sia una decisione presa in extremis dal presidente Obama, il quale invece avrebbe voluto chiudere Guantanamo e portarseli tutti quanti negli Stati Uniti e poi decidere cosa fare, perché ricordo che molti di questi detenuti si trovano in una sorta di limbo legale, nel senso non c'è stato nessun processo, non si sa esattamente di che cosa sono colpevoli, molti tra l'altro sono innocenti, alcuni sono stati già rilasciati, sono stati rimandati in patria, molti si sono reintegrati e alcuni invece hanno ricominciato a fare attività terrorista. Ricordo appunto due che sono stati spediti 8 mesi fa nello Yemen, che hanno ripreso l'attività terrorista. Quindi ci troviamo, secondo me, in una nebulosa in cui nessuno in realtà sa come gestire questa situazione, e la decisione da parte degli europei di riprenderseli è anche questa una decisione, diciamo, inespresa in extremis, e non si sa esattamente cosa succederà quando questi torneranno in Europa, né perché devono tornare in Europa. Capisco la situazione degli italiani, se ci sono dei carichi pendenti, ma i 3 o 5 di cui si parla, se non sbaglio, sono di nazionalità tunisina. Quindi perché vengono in Italia? Questo sì, il non so se usare questa parola, sospetto, e vorrei chiedere conferma al procuratore D'Ambruoso, per quanto lei ce ne può parlare, perché insomma lavora al Ministero della Giustizia, su Repubblica c'è scritto che si sta occupando anche materialmente di questa vicenda molto intricata. Ovviamente il sospetto, o comunque la decisione, è che vengano mandati nei paesi europei proprio quelle persone che in quei paesi europei hanno dei carichi pendenti, in modo che stiano in carcere, per dirla brutalmente. Procuratore D'Ambruoso. Si può leggere anche così, evidentemente, nel senso che sicuramente queste persone erano persone che l'Italia ha già fatto in vari modi, ha già fatto richiesta agli Stati Uniti, aveva già avanzato per ragioni squisitamente giudiziarie una richiesta di consegna piuttosto che di estradizione, perché si potesse procedere nei loro confronti per indagini che erano in corso. Quindi non è una via d'uscita, è sicuramente un ulteriore avanzamento di un passo che già c'era stato. Ciononostante c'è un'apertura da parte, ripeto, non dell'Italia e basta, ma dell'Europa, verso la soluzione di un problema che è un problema di politica internazionale e che in quanto tale ci viene richiesto come in termini di aiuto da parte degli Stati Uniti. Vogliamo sentire anche quello che ha detto il ministro degli esteri Franco Frattini ieri, ha detto alcune cose, insomma una delle dichiarazioni più significative proprio su questo problema, sentiamo. Si tratterà probabilmente di persone che una corte americana giudicherà liberabili, quindi persone che non debbono stare in prigione, salvo che non vi siano processi penali, ad esempio in Italia, come è il caso di due tunisini che sono sotto processo, investigati dalla Procura di Milano. In questi casi valuteremo. Ecco, insomma, a conferma da parte del ministro Frattini, dalle sue parole, che vengono rilasciati e mandati nei paesi eventualmente e sono liberi, a meno che non ci siano dei carichi pendenti. Per l'idea, appunto, che mi sembra profilarsi, è quella di mandare queste persone nei paesi dove ci sono carichi pendenti. Professoressa Napoleoni, questo è un modo, in qualche modo, per salvare, per farli uscire, quindi chiudere la vicenda Guantanamo, ma non farli totalmente lasciare andare in libertà? Potrebbe essere una soluzione, un compromesso accettabile? Ma secondo me, se ci sono dei carichi pendenti, sicuramente, ma non tutti hanno i carichi pendenti. Lo stesso Frattini ha detto che su quei 3 o 5 solamente 2 hanno i carichi pendenti, quindi che cosa succede agli altri 3? Cioè, questo è un problema, secondo me, di diritto internazionale, nel senso, che cos'è questa prigione, cioè quali sono i reati commessi da questi individui. Cioè, questo è un problema che deve essere risolto non prendendosi qualche individuo qui o là, questo è un problema che deve essere risolto a livello internazionale, e non mi sembra che ci sia questa volontà. In un certo senso si vuole cercare di chiudere questa prigione senza però andare all'origine del perché è stata costituita, qual è il ruolo di questi individui, cioè se hanno commesso dei reati in Italia sicuramente devono venire in Italia, devono essere processati, ma se non hanno commesso nulla dove vanno? Ecco, c'è, cioè, l'esempio per esempio degli Uighur, dei cinesi che sono finiti alle Bermuda. Esatto. No, questa è una storia straordinaria. Gli presunti terroristi, o non so se erano stati, sono considerati terroristi uiguri, i cinesi, sono finiti alle Bermuda. Il governo delle Bermuda, ci sono delle gran foto che si fanno dei tuffi nell'oceano, uno di questi ha detto: voglio aprirmi un bel ristorante qui alle Bermuda, insomma. Professoressa. Questo è il mondo, non solo occidentale, ma diciamo il mondo in generale, che vuole fare un favore al presidente Obama, perché il presidente Obama è l'emblema di questo nuovo modo di governare negli Stati Uniti. Gli americani invece gli hanno detto: assolutamente questi noi non li vogliamo in casa nostra. Cioè, capisce qual è la contraddizione. No, bel inghippo, voglio dire. Cioè, però se Obama ha detto entro l'anno, e l'ha detto, ha firmato anche l'ordine esecutivo, entro l'anno Guantanamo va smantellata, una soluzione a queste persone andrà trovata, insomma. Ma sicuramente una soluzione a queste persone andrà trovata, però deve essere una soluzione che è una soluzione fattibile, non deve essere una soluzione in cui li mettiamo dove possiamo. Non dimentichiamo un'altra cosa, che molti di questi individui probabilmente è gente innocente che non ha fatto nulla di grave, però ha passato 4-5 anni in una prigione in cui sicuramente ci sarà stato dell'indottrinamento, in cui deve aver sofferto in un modo pazzesco. Cioè, è molto possibile che alcuni di questi in partenza erano, diciamo, persone innocenti, ma oggi come oggi sono stati radicalizzati e potrebbero in futuro diventare terroristi. Cioè, c'è tutto un discorso da fare dietro, diciamo individuale, prendendone uno per uno, che secondo me va affrontato. Procuratore D'Ambrosio, per concludere, sostanzialmente lei dice, ecco, la decisione è stata una decisione europea, anche se oggi proprio il Financial Times dice che il sì dell'Italia potrebbe fare una breccia un po' tra i dubbi che ancora esistono a livello europeo. Perché secondo lei l'Italia è il primo paese che in modo così convinto ha aderito a questa richiesta? Mi spiace attenuare delle posizioni che sono, insomma, rispettabilissime come quelle del Financial Times, però obiettivamente già c'erano state delle aperture dei governi, non solo dei capi di governo, sia della Francia che della Germania, per una disponibilità a riceverli. Non a caso, ripeto, soltanto 10 giorni fa in Europa i ministri, che sono espressioni dei governi dei 27 paesi, tutti insieme d'accordo hanno dato una disponibilità a riceverli, individuando quali devono essere però i paletti che devono disciplinare l'arrivo di queste persone. Poi si vedrà concretamente persona per persona, bisognerà discutere persona per persona. Quindi siamo in una fase iniziale di un processo che però ha le caratteristiche che sono ben state descritte dalla professoressa Napoleone, un processo abbastanza singolare. Allora, io vi ringrazio, staremo a vedere chi verrà, se verrà, quanti verranno, insomma, da Guantanamo in Italia, se ci saranno anche dei mal di pancia, insomma, che un pochino anche sono stati espressi dal ministro Maroni proprio qui ai microfoni di Giuliano Ferrara a Radio 24, a dire non sono molto d'accordo a questa decisione, una posizione che peraltro è stata ripresa dallo stesso Financial Times oggi, ha citato proprio, insomma, i malumori un po' del ministro Maroni su questo. E ringrazio il procuratore Stefano D'Ambrosio, che dirige l'ufficio coordinamento attività internazionale al Ministero, e la professoressa Loretta Napoleoni, ricordo ancora il suo ultimo libro, La Morsa, è edito da Chiare Lettere, esperta di terrorismo internazionale. Le 8:48 minuti, eccoci qua. Allora, parliamo di divorzio breve. Ci sono delle proposte di legge che giacciono lì un po' tutte tranquille e sonnecchiose in Parlamento per ridurre i tempi del divorzio. Immaginatevi se in Italia non siamo primi anche in questo, i tempi più lunghi per le procedure di divorzio, circa 634 giorni per le procedure di primo grado, il doppio di Germania e Portogallo. L'idea è quindi la proposta di ridurre il numero di anni che devono intercorrere tra separazione e divorzio, una cosa che riguarda moltissimi italiani purtroppo. E prima però di andare al Parlamento, io saluto l'avvocato Jacopo Tozzi. Avvocato, buongiorno. Buongiorno. Ma chi dice che in Italia il divorzio breve non c'è, ma la moda spagnola? Lei ha difeso con un collega una signora di Firenze, sposata con uno spagnolo, ha ottenuto il divorzio in un anno. Allora, la situazione è questa. Abbiamo chiesto al Tribunale di Firenze l'applicazione diretta e immediata della legge spagnola che prevede la dichiarazione di divorzio immediata senza passare dal periodo della separazione. Il Tribunale di Firenze ce lo ha riconosciuto e quindi i due coniugi hanno ottenuto il divorzio senza passare dalla separazione e in pochi mesi, perché il Tribunale è stato anche molto veloce. Cioè, perché l'ex marito era spagnolo. È spagnolo. Sì. La legge, cioè, è stata fatta al Tribunale di Firenze, ma ha applicato una legge spagnola. Accidente, cioè, sul territorio italiano. Certo, è stata applicata la legge spagnola sul territorio italiano sul presupposto che anche un giudice italiano in forza della normativa del diritto internazionale privato e processuale, può applicare la legge di un paese straniero laddove vi sono i presupposti per applicarla, cioè ad esempio uno dei due coniugi non è italiano e la vita matrimoniale ad esempio si è svolta prevalentemente anche nel paese straniero. E anche può essere applicata anche quella legge che stabilisce che non è necessario il passaggio immediato dalla separazione, cosa che invece in Italia è ritenuto impossibile perché la normativa italiana prevede obbligatoriamente il periodo della separazione e i 3 anni per divenire al divorzio. Anche se adesso ci sono queste proposte. A questo proposito io saluto Diego Sabatinelli, buongiorno. Buongiorno. Lei è il segretario della Lega Italiana per il divorzio breve. È già al Parlamento? Oggi manifestate. Che fate davanti al Parlamento? Attenzione, sì, ci sono ancora le tende dei terremotati? No, si sono spostati. Beh, sa adesso che... vedremo perché io ancora non siamo lì. Certo. La manifestazione inizierà dalle 10. Dalle 10. Quindi, e che chiedete voi? Beh, noi chiediamo che vengano discusse le proposte di legge che sono state presentate in Parlamento, proposte di legge che sono state presentate da eletti della maggioranza di opposizione e che appunto prevedono la riforma della legge sul divorzio, ovviamente tendenti a ridurre i tempi e a semplificare le procedure. Solo che queste proposte di legge sono state presentate in Parlamento, giacciono senza essere assolutamente discusse o poste all'ordine del giorno, sì. Quindi vogliamo che in questa legislatura venga discussa, almeno si arrivi a un testo base da votare. Poi, sì, no, io ho detto giacciono... Viene come la scorsa... Io ho detto giacciono un po' sonnecchiose, ma mi dica un po', io ho dato questi tempi, i tempi che ho dato, 634 giorni per il primo grado, insomma sono più o meno quelli, siamo i primi o gli ultimi, insomma. Sì, sì, sì, sì. Come la si vuol dire. I tempi sono quelli, nell'Unione Europea l'Italia è il paese che ha la legislatura più complicata in questo, la legislazione più complicata in questa materia, la più lunga e anche la più costosa, perché da noi sono previsti 2 giudizi, uno di separazione e uno di divorzio, e quasi totalità dei tribunali italiani poi è previsto l'assistenza obbligatoria, legale obbligatoria, anche quando vi è il consenso delle parti su tutte le questioni che li riguardano. Come se passassero, non so, una delle proposte di leggi, credo ce ne saranno diverse, in che cosa in concreto si potrebbe ridurre in termini di tempi, in termini di gradi di giudizio? Ma guardi, io personalmente con molti dei nostri iscritti tendiamo ad eliminare proprio il passaggio del giudizio di separazione, ovvero negli altri paesi esiste un periodo di separazione di fatto e poi, superato questo periodo, si accede direttamente al giudizio di divorzio. In altri paesi, addirittura come la Spagna, i tempi del giudizio di divorzio sono sufficienti a sciogliere il vincolo coniugale. C'è anche da considerare che non più dell'1% delle coppie che decidono di lasciarsi, dei coniugi che decidono di lasciarsi, torna indietro, torna sui propri passi, quindi si può anche tranquillamente dire che se l'obiettivo di periodo così lungo per divorziare è quello di tendere a far riflettere la coppia e farla ritornare diciamo al matrimonio, ecco, questo obiettivo è stato completamente fallito. Questi 40 anni quasi, sì, di quasi divorzio, 38, sì. Sì, 38 hanno chiaramente dimostrato che l'obiettivo è fallito, quindi non ha nessuna ragione d'essere una procedura così complicata. Le chiedo, quanti stimate di essere al Parlamento a dire: cari parlamentari, avete promesso delle proposte di legge per il divorzio breve, fatele, calendarizzatele e discutetele e nel caso approvatele? Guardi, la mia previsione è di un numero abbastanza basso di partecipanti, perché noi abbiamo dovuto organizzare questa manifestazione in un giorno feriale di mattina quando la gente lavora, proprio perché anche i parlamentari lavorano e il nostro obiettivo era quello di farci vedere e farci sentire appunto dai membri del Parlamento e dai membri della Commissione Giustizia, che è quella competente a discutere su questa materia. E quindi io invito gli ascoltatori che si trovano a Roma e hanno la possibilità di tagliarsi un'oretta, un paio d'ore, prendere un'ora di permesso, un permesso di un'ora, insomma. e venire al Parlamento. Onoro, se sono liberi professionisti, di fare un salto, venirci a trovare è molto importante. Ricordiamoci che statisticamente ognuno di noi o è coinvolto personalmente o conosce un parente, un amico, questo un vicino, un collega che è coinvolto in questo, quindi la gente sa esattamente di cosa stiamo parlando. Questo è vero, tanto alle 10 il Parlamento, chi è di Roma sa benissimo dove si trova. Io vi ringrazio sia Diego Sabatinelli della Lega Italiana per il Divorzio Breve, l'avvocato Jacopo Tozzi, che ci ha spiegato come per la prima volta in maniera con una novità importante è stata applicata la legge spagnola sul territorio italiano per una coppia per ottenere il divorzio breve. Ci fermiamo qui, tra poco Giuliano Ferrara parla del Partito Democratico, di quello che sta succedendo all'interno del partito in vista anche del congresso in autunno e Laura Marchesi, Alessandro Marcotulli in redazione, Carmelo Lauricella in regia, potete anche scriverci 24 mattino @radio24.it e ci troviamo domani.